Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Il presidente Obama, eccolo qui, sentiamolo. Today, with the executive order I am about to sign, we will bring the change that so many scientists. Today, executive order, insomma, l'altro ieri Obama ha fatto qualcosa di molto solenne, di molto importante. Ha riunito vari premi Nobel, ricercatori scientifici, rappresentanti di associazioni di ammalati di malattie cronico-degenerative come l'Alzheimer ed altre, e ha firmato un executive order, e con quella sua bella voce rotonda, convincente, giovanile, proiettata verso il futuro e verso la speranza, ha riautorizzato ciò che Bush aveva proibito. Poi entreremo nei dettagli di che cosa significa questo executive order, fino a che punto si è spinto, eccetera. Ma insomma, sostanzialmente ha detto prendete questi embrioni, questi embrioni umani che hanno la loro struttura cromosomica unica e irripetibile, che sono, diciamo, il nucleo dal quale poi deriva con la semplice, sono concepiti, no? Sono stati concepiti, dopodiché diventano persone umane, cioè insomma, sono il nucleo della persona umana, individuale, non della persona umana astratta di San Tommaso d'Aquino, atto, potenza. Prendete questi embrioni umani e distruggeteli a scopo di ricerca, tranquillamente. I giornali, anche i giornali liberal americani, quelli che sono per la ricerca, quelli che sono per la scienza, quelli che sono contro l'oscurantismo, contro i giornali lo hanno rimproverato un po', lo hanno applaudito, però poi dopo hanno introdotto un elemento di dubbio, perché, viva Dio, insomma, il dubbio ancora c'è in Occidente. E hanno detto, ma però il presidente non ha affatto parlato delle questioni etiche, morali, delle remore a comportarsi in questo modo, che pure, diciamo, non ne ha proprio parlato. E in effetti Obama, che è un genio della propaganda, non ne ha parlato delle questioni etiche, delle remore morali. Ha detto un'altra cosa, ha detto io non vi posso promettere di guarirvi dall'Alzheimer, dal Parkinson e da tante altre malattie, non posso promettervi di farvi alzare dalla sedia a rotelle rigenerando il vostro midollo spinale, questo nessun presidente americano lo può fare, posso però promettervi che ci proveremo. E da uomo di fede, ha detto, altro che laicità, battaglia tra laici e cattolici, c'è uno che, diciamo, si atteggia a uomo di fede cristiana, è proprio Obama. Da uomo di fede io voglio alleviare le sofferenze degli altri, voglio combattere il dolore, sono solidale. Da uomo di fede, ecco, un taumaturgo, avete presente un taumaturgo? Un sacerdote pagano che si dissimula nelle vesti di uomo di fede cristiana e che promette la guarigione qui su questa terra, promette di alleviare i dolori attraverso l'uso di materia prima, diciamo, umana. Uno scienziato lì l'ha chiamata materia prima, però umana, per scopi moralmente quantomeno controversi, discutibili. Ne parliamo sentendo ovviamente tutte le opinioni. 800 24 00 24 per capire se Obama sia un pragmatico difensore della libertà di ricerca scientifica, consapevole anche dei limiti etici che ogni ricerca dovrebbe darsi, oppure se sia, come a me è sembrato, un po' un taumaturgo che promette la guarigione universale in nome della propria fede e del bisogno di fede del credente di alleviare le sofferenze degli altri. Per cercare di capirci qualcosa abbiamo ai microfoni Pier Giorgio Strata, neurofisiologo, presidente dell'Istituto Nazionale di Neuroscienze e quindi uno scienziato, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, che è l'associazione di ambito, di area radicale, che ha fatto le famose battaglie, insomma, nella direzione che sappiamo. Abbiamo anche al microfono Marina Casini, ricercatrice in bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, e Cristian Rocca, giornalista del Foglio, corrispondente del Foglio da New York. Professor Strata, buongiorno. Buongiorno. insomma, la faccenda di Obama e delle staminali embrionali che riottengono i finanziamenti federali necessari e che erano stati necessari a sviluppare la ricerca e che erano stati invece limitati da Bush alle linee cellulari presenti prima del 9 agosto del 2000. Ecco, questa vicenda naturalmente ha sollevato grandi polemiche. Io vorrei fare una domanda prima di tutto pratica, perché molta gente se lo chiede. Il professor Dulbecco, che pure ha salutato questo, ha detto: bisogna dire che sulle staminali embrionali si può lavorare senza sacrificare embrioni umani prodotti in vitro. Perché c'è questo nuovo sistema che deriva dalla sperimentazione del biologo giapponese e insomma si possono riprocessare le cellule e farle diventare cellule embrionali, e quindi ci si può lavorare senza che sia materiale umano. Quindi perché fare questa cosa? Gli esperimenti del giapponese hanno dimostrato che una cellula adulta, per esempio della cute, può essere riportata indietro verso lo stato di cellula staminale embrionale, ma non completamente ancora allo stadio proprio iniziale. Sono studi in corso che ancora non sono utilizzabili. In secondo luogo, io credo che la ricerca non deve essere limitata, poi possiamo passare all'aspetto etico, che è diverso, ma dal punto di vista della domanda che mi fa lei, e cioè del valore scientifico, io credo che la scienza non deve avere dei limiti e deve esplorare la cellula adulta, la cellula embrionale, la possibilità di tornare indietro, di riandare avanti e così via. Quindi c'è una giustificazione di questo tipo. Lei dice la scienza non deve avere dei limiti, però questione delle dice: ora la nuova tecnica delle staminali cosiddette IPS, che sono appunto le staminali ricavate dai procedimenti, dai protocolli fissati da questo biologo giapponese di cui adesso mi sfugge il nome, ottenute partendo da cellule adulte, permette di evitare l'uso degli embrioni. Questo l'ha detto Dulbecco. No, permette, non ha ancora permesso totalmente, ma è uno studio in corso che ha dimostrato che si può tornare indietro nella differenziazione delle cellule. Allora, ho detto che se lasciamo da parte un momento il problema etico, che può tornare in discussione fra poco, dal punto di vista della ricerca è utile vedere di farle tornare indietro, ma anche di vedere come la prima cellula prende una strada piuttosto che un'altra, perché questo è un meccanismo importantissimo nello studio della nostra, per aprire le nostre conoscenze. Ecco, la ricerca privata in questo campo è sempre stata libera, non c'è stato Bush di sorta che abbia potuto impedirla. E perché è necessario anche impiegare tutte le risorse pubbliche in questa direzione? Il problema è che negli Stati Uniti il bando era solo per finanziamenti pubblici e in questi anni si sono prodotte diverse linee cellulari. Non so se il pubblico che ci ascolta capisce cos'è la linea cellulare, se lei vuole la possiamo spiegare meglio con degli esempi. Prego. Allora, devo spiegare cosa vuol dire linea cellulare? Prego, certo. Allora, la linea cellulare è così, è semplice: io ho una cellula iniziale che viene fecondata, che è l'uovo, poi diventano due cellule, 4, 8, 16. A un certo momento arriva un punto la cellula che prende una strada, è come uno studente che è al liceo e che decide di andare a fare medicina o andare a fare ingegneria o legge. Sì. Poi dopo, una volta che è entrata a medicina, non può più tornare indietro, tramite gli esperimenti di Yamanaka che può tornare indietro. In realtà, una volta che è andata a medicina, non può più tornare indietro. E quando è a medicina si laurea e deve decidere se fare il chirurgo, l'ostetrico, eccetera, sì, eccetera, e così via. Poi da lì può decidere di diventare ortopedico e di operare solo la spalla. Ogni volta si differenzia finché si arriva alla meta. La cellula è diventata cute, è diventata fegato, è diventata, certo, muscolo. Ecco, questa, una volta che ha superato questo scalino e si è andato verso una certa direzione, si dice quella è una linea cellulare che va verso là. Certo. Allora, nel caso dell'America, degli Stati Uniti, avevano detto che la ricerca privata poteva preparare linee cellulari, perché la sfida futura è proprio quella di preparare cellule della cute per trapiantarle sulle ustioni, oppure per cellule del fegato, del cuore, eccetera, eccetera. Allora, questo è quindi noi, l'industria e tutto il mondo sta investendo capitali enormi proprio perché la preparazione di queste linee cellulari promette in futuro delle grandi aspettative terapeutiche. A questo punto, negli Stati Uniti, durante gli 8 anni di bando di Bush, sono state prodotte numerose linee cellulari, di cui la prima è stata autorizzata recentemente per la sperimentazione sull'uomo in questi giorni. E quindi queste linee cellulari ci sono, ma sono state private. Adesso, rimuovendo il bando di Bush, Obama dice: studiate pure queste linee cellulari, andate avanti, cercate di differenziarle. Non è che prima non fossero studiate, lui dice: ci vuole un nuovo monte di risorse molto grande, i fondi federali, per fare questo. Dice: adesso i fondi pubblici possono essere usati per continuare questa ricerca. Quindi, se l'industria X ha prodotto la linea cellulare H, prendetela pure, io vi do i soldi per continuare. Quindi lo Stato collabora col privato per andare in questa straordinaria avventura. Rocca, come è stato accolto in America questa grande cerimonia, insomma, taumaturgica, secondo me? Ma glielo dico subito, però se mi permette di fare per una precisazione a quello che diceva il professore, ovviamente non nel delle cose scientifiche di cui io non sono un esperto, ma negli anni di Bush non è vero che è stato negato, bandita la ricerca, i soldi statali pubblici sulla ricerca sugli embrioni, è soltanto i soldi federali, quelli di Washington, perché i soldi pubblici, i soldi dei singoli stati, io ricordo per esempio che un paio di anni fa soltanto la California ha investito 3 miliardi di dollari in 10 anni sulla ricerca sulle staminali, ma poi ci sono anche altri casi, New York, Wisconsin, Connecticut, altri grandi stati che hanno speso molti soldi su questo. Questo qui non era affatto vietato, per cui non solo non era vietata la ricerca, privata sulle staminali embrionali, ma non era vietata nemmeno la ricerca pubblica, quella statale, quella con i soldi dei vari stati americani. E anzi Bush è stato il primo presidente che per la prima volta ha aperto i soldi federali soltanto, è vero, sulle linee cellulari, quelle che diceva il professore, che erano già esistenti al momento della firma di quel decreto esecutivo, cioè di 9 agosto 2001. Esatto, è dell'agosto 2001. Poi ha detto: studiate questo. Infatti il professore poco fa ha detto che è stata già autorizzata la sperimentazione sull'uomo e la legge di Bush, la legge di Obama non è ancora operativa, è stata fatta ieri, ma questa sperimentazione sull'uomo delle cellule staminali avviene, diciamo, con la legge vigente di Bush, quella considerata. Va bene, allora d'accordo, abbiamo stabilito che Bush non è stato questo nemico della scienza che si dice, però andiamo al sodo, come è stata recepita l'obiezione? Attenzione, il presidente è stato un po' disinvolto, non ha parlato, non ha affrontato, magari per superarlo dal suo punto di vista, il problema, diciamo, della remora etica ad usare gli embrioni come mezzo. Sì, diciamo che i grandi giornali libera, lo diceva lei nell'introduzione, e hanno ovviamente applaudito questa scelta, perché sono stati contrari alla decisione di Bush di limitare la ricerca soltanto a quelle linee cellulari. Però si sono posti il problema, in particolare il primo editoriale del Washington Post di ieri, del fatto che Obama non si è posto la questione etica e morale legata a questa ricerca, a questa sperimentazione. Ma anche il New York Times, che invece è, diciamo, più entusiasta nell'appoggiare questa decisione obamiana, con un articolo in prima pagina ha chiesto: ma insomma, Obama è vero che dice che adesso finalmente la scienza prevale sulla politica e non ci sarà più una scienza politicizzata come avveniva negli 8 anni precedenti, ma in realtà lui sta facendo esattamente la stessa cosa, sta facendo prevalere la sua scienza, la linea che i suoi scienziati gli suggeriscono, esattamente come hanno fatto in precedenza. Ecco, io direi di più, e mi rivolgo a Marina Casini, che è una ricercatrice bioetica cattolica, che lavora in ambito cattolico, che è una pro-lifer. Obama ha fatto una cosa, diciamo, inedita, anche se era in realtà... ha usato la fede religiosa, perché Obama è un cristiano militante, sappiamo tutti, il pastore, la Black Church, eccetera, eccetera. Ha usato la fede religiosa esattamente nel senso opposto a quello di Bush. Bush aveva portato i bambini nello studio ovale della Casa Bianca e aveva detto: questi erano degli embrioni congelati, adesso sono dei bambini, viva la vita. E questa era la sua dimensione etica cristiana, cioè sì, la ricerca va bene, dobbiamo curare le malattie, dobbiamo fare di tutto in quella direzione, ma ci sono dei limiti e non si può usare la vita umana, neanche embrionale, per la ricerca, distruggendola. Obama ha detto, per questo non ha affrontato la questione etica, il contrario, ma sempre in nome della fede, cioè ha detto: io da cristiano dico bisogna curare gli ammalati e quindi metto i fondi federali al servizio della ricerca che distrugge gli embrioni umani. E per voi cattolici cristiani è un bel problema se qualcuno... Sì, guardi, intanto buongiorno a lei e buongiorno anche agli altri ospiti. Ma io penso sinceramente che su tutti questi temi della bioetica, su questo in particolare, ci sia bisogno non di uomini di fede alla Obama, e tutto sommato aggiungo anche che le capacità dell'uomo di strumentalizzare qualsiasi cosa sono molteplici, per cui anche la fede può essere strumentalizzata per chissà quale fine, ma abbiamo bisogno di uomini di ragione. Qui in gioco è la questione dell'intelletto, della ragione, della capacità di riflettere, di guardare fino in fondo i problemi. Quindi il ricorso alla fede a me fa sinceramente sorridere, anzi, mi sembra esattamente proprio un argomento che dimostra come in fondo non si vogliono affrontare razionalmente le questioni di fondo. E qui c'è una questione di fondo che impegna la ragione, impegna questa nostra risorsa umana che dovrebbe accomunarci, credenti appunto e non credenti. E la questione di fondo è quella che riguarda l'embrione umano. È inutile sottolineare dei fini nobili, eccelsi, riconosciuti da tutti come meritevoli di riconoscimento e di ospitalità, perché tutti quanti vogliamo debellare, prevenire, superare malattie, riparare tessuti degenerati e compagnia bella. Non è questo il punto. Quindi enfatizzare un fine sottovalutando e accantonando le questioni... Sì, è già successo nella storia dell'ideologia. Esattamente. Il fine giustifica i mezzi. Esatto. Insomma, e questo è antirazionale. È un procedimento pesante, diciamo. Esatto. Poi ci sono quelli realisti, che hanno una cultura realista, che magari possono... Ma Obama è l'audacia della speranza, altro che il fine giustifica i mezzi, dovrebbe essere, ma comunque... Sì, comunque poi i fatti però vanno in questa direzione, che il fine comunque giustifica i mezzi, o comunque anche non volendo entrare a valutare il retropensiero di Obama e di chi lo affianca, in realtà resta il fatto che in questa vicenda non si possono trascurare, non si può trascurare la questione di fondo, e quindi problemi, sì, etici e antropologici, certo, non si possono trascurare. Arrivano un sacco di telefonate. 800 24 00 24, come trattare gli embrioni umani. Obama ha fatto la sua scelta. Dunque, Bruno dalla provincia di Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io non so se la sua ospite ha finito il discorso sulla razionalità, ma io l'ho capito in parte. A mio avviso uno Stato che si dice laico, la cosa che deve fare è dare la possibilità di comportarsi in un certo modo, non negare la possibilità, riportandosi a un'etica che può essere di parte, come quella della religione, come un'etica cattolica e cristiana. Ecco, scusi Bruno, però lei ha sentito quello che dicevo prima, no? E non è una mia opinione, è un fatto. Obama ha detto esplicitamente: io sono per la libertà della ricerca scientifica, nel senso che penso che noi siamo un grande paese laico e quindi non possiamo assumere idee, ideologie di un tipo o dell'altro. Ha detto: in nome della mia fede, del fatto che sono credente, che sono cristiano e che voglio alleviare il dolore delle persone umane, io vi dico: prendete gli embrioni umani, distruggeteli a scopo di ricerca. Lo ha detto da credente. È una cosa, guardi, è una sfumatura importante questa, perché in Europa tutti giocano la questione Stato laico, laici e credenti, credenti e non credenti, diversamente credenti. Ma Obama invece ha fatto un'altra operazione. Lei che ne pensa? Allora, assolutamente sì. Io penso che abbia aperto un'altra strada, un altro modo di essere credenti in qualche modo. Però bisogna vedere di cosa si sta discutendo. No, perché siccome si dice sempre credenti fuori dalla mischia, perché non ci interessa la vostra fede, qui è un atto di fede che genera un executive order. Ma certo, però dipende da quello di cui si sta discutendo adesso. Lei ha iniziato la trasmissione parlando e mettendo l'accento, secondo me, in un modo sbagliato, ma Radio 24 è un po' che sta prendendo una posizione invece di essere di mero approfondimento, mettendo l'accento sul fatto che sono embrioni umani, il fatto che comunque in qualche modo appoggiando un'etica cattolica. Che, voglio dire, è la sua posizione. No, guardi, io non sono cattolico. Che c'entra l'etica cattolica? Io parlo da essere razionale, generico, umano, così, e da allora cittadino. Deve anche prendere... Io penso che coloro che devono arrivare non sono al nostro servizio. Coloro che devono arrivare... No, grumi di cellule è una cosa antiscientifica che lei sta dicendo, una cosa barbarica. C'hanno la struttura cromosomica di una persona. Ha presente cos'è una struttura cromosomica? Se vuole lo chiediamo al professor Strata. No, volevo, scusi dottor Ferrara, sì. Io volevo precisare che Obama non ha assolutamente detto che si possono distruggere gli embrioni umani, ha detto semplicemente, e c'è una legge che porta un doppio cognome che dice che non si possono distruggere e che permane, dice solo che le linee cellulari che prima erano limitate adesso sono senza limiti, le linee cellulari che sono state isolate finora possono essere continuate a studiare con fondi federali, quindi la distruzione degli embrioni... Obama non mi pare che l'abbia detto, il dottor Rocca forse ha letto La ricerca sugli embrioni equivale alla possibilità della loro distruzione. Lei questo la distruzione degli embrioni è proibita negli Stati Uniti se quell'embrione è proibita la creazione di embrioni al mero scopo di ricerca. Ma gli embrioni destinati alla vita, quelli non si possono toccare. Sì, gli altri sono anche se quelli destinati alla vita devono essere messi in utero naturalmente, perché altrimenti non nasce il bambino. Gli altri invece si toccano, insomma. Comunque, professor Strata, io volevo farle un'altra domanda. Scrive il professor Veronesi, che diciamo, ha opinioni note in merito, il senatore Veronesi, scrive su Repubblica di oggi: «Va chiarito che tutti, credenti e non credenti, pensiamo che l'embrione debba essere utilizzato per far nascere bambini. E va anche precisato che nessuno mai ha pensato di produrre embrioni per la ricerca scientifica». È un po' il tema che lei stava affrontando. Poi ha detto, sempre su Repubblica di oggi, si può accettare il divieto di utilizzare a scopi di ricerca gli embrioni destinati alla procreazione. Quindi uno scienziato molto, diciamo, liberalizzatore in materia, che sottoscriverebbe, come Veronesi, l'executive order di Obama, e che è d'accordo sostanzialmente con voi, con l'associazione Luca Coscioni, con lei, insomma con le sue idee, dice che però dei limiti vanno riconosciuti. Lo stesso Obama dice la clonazione no, su questo saremo severissimi. La mia domanda è... ma perché se si riconoscono questi limiti in certi casi, in altri casi invece no? No, il limite è così fatto, dottor Ferrara, che noi abbiamo per esempio in Italia 30.000 embrioni congelati che non daranno mai, inutile essere teorici, sì, in teoria potrebbe, un embrione congelato che sta lì 5 anni, 10 anni, nessuno si fiderebbe mai a vedere di rimpiantarlo su qualche persona, quindi sono destinati o prima o dopo alla distruzione, non possono stare lì per un milione di anni. Allora non capisco per qual motivo questi embrioni, che sono un po' una specie di persona in coma, non debbano essere utilizzati per la ricerca. Questo è uno spreco inutile. Da lì potrebbero derivare tante le nuove linee cellulari, si possono continuare a studiare questi problemi importanti. Professor Perché Strata, devo limitarlo? Professor Strata, lei è arrivato proprio al punto di giunzione, caso Englaro, ricerca, embrioni. Lei ha detto questi embrioni sono come una persona in coma. Ma lei una persona in coma la userebbe a scopi di ricerca? No, però noi... La tagliuzzerebbe col bis? No, scusi, sì, la uso non per ricerca, la uso per terapia, perché quando faccio i trapianti, pianti, io decido che quella persona, anche se ancora il cuore batte, io ho deciso che quella persona chiudo la vita per utilizzare i suoi organi. Questo viene detto, niente. Scusi, professor Strata, c'è un protocollo di Harvard, tra l'altro discusso e rimesso in discussione in modo sacrosanto, secondo me, C'è la morte cerebrale. Ecco, appunto, lei prima ha dovuto stabilire questo è morto e poi dopo fa gli espianti, perché la morte cerebrale consente di espiantare un organo a cuore battente. Ecco, ed è già una cosa complessa, ma è morto. Lei prima ha detto gli embrioni sono come persone in coma. Sì, no, guardi, allora l'embrione, se lei mi dice che l'individuo che la morte cerebrale lo considero morto, perché questa è una nuova definizione accettata dal 68 proprio per permettere i trapianti, allora io le dico che un embrione non ha il cervello, perché quando è congelato allo stadio di 8 cellule non c'è una sola cellula che appartenga al sistema nervoso, quindi fino almeno al 14° giorno questa persona ha uno stato cerebrale zero. Mm-hmm. Va bene, poi dopo il 14° giorno però con uno stato cerebrale sviluppato, magari dopo qualche settimana lo si può abortire. Quindi è un piano inclinato che va avanti, lei ha nominato l'anno giusto, il 1968, che va avanti dal 1968 e che mette insieme tutto, perché tutto si tiene in tema di vita, secondo me. Però adesso non voglio riaprire la questione dell'encilia del Papa, della contraccezione, della pillola, eccetera. Siamo talmente avanti su questa strada che è inutile forse anche solo rifare la storia. Sentiamo altre persone che hanno telefonato. Mario da Milano. Io volevo fare un'osservazione al suo ospite, che se fosse veramente vero che i fattori etici passano in seconda linea riguardo a queste meravigliose e progressive scoperte della medicina, il dottor Mengele starà brindando una tomba a Champagne con i suoi colleghi del Terzo Reich, in quanto il dottor Mengele scriveva che i suoi studi servivano per guarire i soldati tedeschi della Seconda Guerra Mondiale che tornavano dal fronte russo gravemente feriti. E, tra l'altro, questo anche vorrei dedicarlo al signor Massarenti, che trova tanto spazio nella vostra radio con la pubblicazione dei suoi libri, le sue tesi quantomeno discutibili. Vabbè, Armando Massarenti però è un pensatore, è uno storico delle idee, una persona diciamo che ha diritto di su questa radio c'è diritto di esprimere le proprie opinioni, per lui, per me è una radio libera. Silvia da Milano. Ferrara. Silvia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io senza disturbare la fede, la scienza, mi riferisco al fatto che se gli embrioni devono finire nel lavandino dopo un certo tempo, tanto vale che vengano utilizzati per salvare la vita umana. Tutto qua. Ci sono dei bambini condannati a morire che finiranno nella tomba, che è il lavandino degli embrioni. Non è che li possiamo utilizzare per salvare la vita umana, no? Sono esseri umani. La scienza ci dà questa possibilità, è assurdo frenare la scienza. Ma la scienza ce ne dà tante di possibilità, possiamo pure squartare dei bambini destinati a morire. No, non sono bambini gli embrioni. Ecco, non perché sono lei bambini, ne è convinta? Non hanno cervello, quindi se vengono impiantati bene, ma se devono finire nel lavandino tanto vale, non hanno cervello, quindi che vengano utilizzate per salvare i vivi. Dobbiamo pensare prima ai vivi. E questo è bene che lo si dica con chiarezza, mi fa piacere. Cioè, questo è un problema anche filosofico. Marina Casini e Pier Giorgio Strata, tutti e due rivolgo la domanda. Sì. Scruton ha formulato il problema, un filosofo noto in tutto il mondo. Ha detto, ma sono quelli che devono venire, i nascituri, i concepiti, quindi diciamo gli uomini del futuro, gli uomini che sono in potenza e che diventeranno in atto, le generazioni future sono al nostro servizio, noi dobbiamo usarle per il nostro benessere, o siamo noi in una società eticamente sensibile e matura e adulta, o siamo noi che siamo al loro servizio? No, perché sa, la speranza, il futuro, si parla sempre del futuro, della speranza, la fede, ma... Guardi, io penso che futuro, speranza, fede, aperture, eccetera, va tutto bene. La questione resta quella di fondo. È giusto, umanamente, antropologicamente parlando, utilizzare degli esseri umani in qualsiasi stadio del loro sviluppo corpo, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione, come cavi anche per il fine più nobile? È giusto o non è giusto? Anche nel dubbio che possano essere esseri umani. È un criterio di laicità, è un criterio di rispetto per l'umanità oppure no? Io ritengo di no, ma non lo ritengo per ragioni di fede, lo ritengo realmente per ragioni eticamente umane, razionalmente fondate, e voglio dimostrarlo anche ripensando ad un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica relativo proprio alle ricerche che usano embrioni umani per le cellule staminali, in cui si legge chiaramente, ripeto, Comitato Nazionale per la Bioetica, che gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo, quindi non esiste il concetto di potenzialità, di vita in potenza, eccetera. Lo sviluppo riguarda gli aspetti quantitativi, ma qualitativamente siamo di fronte a vite umane, cioè esseri umani a pieno titolo. Si dice anche in questo parere che esiste il dovere morale di rispettarli sempre e di proteggerli nel loro diritto alla vita. Si dice anche che non vanno finanziati ricerche sugli embrioni, perché altrimenti si rafforza e si avalla in modo ingiustificato l'erronea opinione che gli embrioni umani siano un mero insieme di cellule prive di valore intrinseco. E qui ricordo che vi è anche un dato scientifico autorevole, diffuso: non siamo di fronte a esseri umani privi di un loro protagonismo, privi di una loro autonomia. Gli embrioni umani sono protagonisti del loro stesso sviluppo, la loro esistenza, il loro esserci non dipende dalla volontà esterna di qualcuno, non gli è dato dall'esterno. Sono autonomamente, intrinsecamente portatori. Ecco, invece Sara da Milano non pensa così, pensa che l'embrione non è vita, la vita è, dice, lo spazio che una madre ha nel cuore. C'è vita se allora, io la riconosco soggettivamente. Sara, Ferrara, prego. Ferrara, per cortesia, prego. Non parta così, per cortesia. Cioè, no, parto così, ho riferito la scheda madre... che dice... Sì, sono madre di un bambino nato di 420 grammi, al quale non davano nessuna chance di sopravvivenza, né in utero, né tantomeno al momento della nascita. Luca oggi, che è mio figlio, ha 3 anni, cammina, parla, fa tutto quello che un bambino della sua età dovrebbe fare. Perdoni l'emozione perché è molto grande, perciò la prego di avere attenzione. Io non è vero che non considero l'embrione vita umana. Ho detto un'altra cosa, perciò per cortesia no. Ho detto un'altra cosa che le ragazze che lavorano per lei in radio hanno compreso perfettamente. Io ho detto semplicemente che quando mio figlio è stato dimesso con un quadro clinico che faceva presupporre uno stato vegetativo, quindi il nulla, uno stato vegetativo è Eluana. È questo caso, né più né meno, i medici hanno preferito non dirmelo. Grazie al fatto che non mi è stato detto che quale poteva essere in potenza lo scenario è ben diverso. Allora io volevo portare il caso di mio figlio Luca come possibilità, come spunto di riflessione, per interrogarci su quando inizia la vita nell'embrione. Perché all'atto delle dimissioni dall'ospedale di Buzzi di Milano, quando me l'hanno fatto portare a casa e aveva una risonanza magnetica cerebrale che non dava nessuna possibilità, oggi Luca parla, disegna, mi viene incontro, è un bambino normale, ma lo è da poco tempo, ci sono voluti 3 anni. Se mi avessero detto queste cose, io probabilmente l'avrei trattato come un vegetale e credo che il suo sviluppo ne avrebbe risentito. Allora la mia storia viene portata al di là delle mie personali opinioni, di quello che io credo essere la fede, e per me la fede è l'amore, l'ho scoperto con questa straordinaria esperienza. Sono oggettivamente, glielo potranno confermare eventualmente, volesse fare della mia storia un manifesto che a lei probabilmente interesserebbe, credo, perché è veramente... No, io non faccio un manifesto sostiene. Della storia di no, nessuno, ho ascoltato con pazienza con e con interesse la sua storia, mi fa piacere che vada nella direzione delle mie idee, le faccio molti complimenti per il suo comportamento e per la sua storia che è toccante, grazie. Bene, andiamo verso la conclusione. Volevo fare una domanda a Rocca, esperto di Obama e dell'America. Maurizio Mori ha scritto su Liberazione, Maurizio Mori è il presidente della Consulta di Bioetica, è la persona molto schietta che dopo la morte di Eluana ha detto questa è la nuova Porta Pia, siamo riusciti a far capire che la vita umana è disponibile, non è indisponibile, quindi abbiamo fatto una piccola rivoluzione culturale, insomma una persona che parla chiaro. Anche in questo caso Maurizio Mori è stato esplicito, ha detto questo mi sembra l'aspetto più nuovo e importante della questione, che sarebbe un errore vedere in maniera isolata a proposito di Obama. Non c'è solo la ripresa della ricerca sulle staminali embrionali, ma va considerato anche il discorso sull'aborto. Se mettiamo tutto insieme dobbiamo prendere atto che Obama sta operando una vera e propria rivoluzione rispetto alla precedente amministrazione. Cosa dobbiamo prevedere? Un nuovo bel incentivo all'aborto? Ripristineranno l'aborto a nascita parziale? Cosa farà Obama secondo lei? Ma non credo che andrà fino a quel punto. Obama con quasi tutte le questioni, diciamo, eticamente sensibili, come si usa dire, da noi ha sempre una posizione molto intelligente dal punto di vista del marketing politico, per cui appunto lui si presenta sia come l'uomo di fede sia come il principe del laicismo, ma mantiene sempre una ambiguità tale per cui dice appunto che il diritto della donna ad abortire non si tocca, e la sua piattaforma politica, la piattaforma politica del Partito Democratico, è la più radicale degli ultimi anni tra i candidati democratici, ma contemporaneamente dice no, bisogna però fare di tutto per ridurre il ricorso agli aborti, e quindi ha proposto anche una legge per facilitare ancora di più le adozioni e così via. E un momento chiave potrebbe essere quello della scelta dei giudici della Corte Suprema, perché come sappiamo negli Stati Uniti l'aborto è legale per effetto di una sentenza della Corte Suprema del 73, la Roe contro Wade, e che da allora è stata sempre, diciamo, sostenuta da tutte le maggioranze. Allora è possibile che Obama avrà bisogno di nominare qualche giudice costituzionale per raggiunta per età anziana di alcuni, per una donna molto malata, eccetera. Allora, se lì sceglierà un giurista militante dell'aborto, allora potrebbe essere questo un segnale non solo per consolidare quella sentenza, ma perché anche per portare avanti anche sul piano congressuale questa battaglia. Ma io non credo, lui è bravo proprio a tenersi in bilico e in questa sorta di ambiguità, per cui anche la scelta dell'altro ieri è stata criticata a destra e a sinistra, perché appunto è stata in qualche modo vista come ambigua. Bene, professor Strata, anche secondo lei c'è un rapporto, e quale, tra queste decisioni sulla ricerca attraverso gli embrioni umani e tutto il resto, cioè tutte le altre grandi questioni etiche che riguardano l'aborto e magari anche l'eutanasia, cioè il problema del nostro rapporto con la vita umana dal punto di vista della libertà della ricerca scientifica, ma anche dal punto di vista etico, è un solo problema anche secondo lei, come mi sembra di capire per Mori? No, non è un solo problema, qui si tratta, io credo che questa trasmissione che doveva durare un'ora, lei ha condotto molto bene, c'è stato però poco spazio per chiarire, credo che quello che era il punto fondamentale di questa discussione, e cioè l'uso degli embrioni, perché qui si è confuso tra l'usare un embrione che poteva diventare un uomo e usare un embrione destinato al lavandino, perché bisogna dire che tranne che in Italia e in Nicaragua, in tutto il mondo si producono embrioni per la fecondazione in vitro, e che ci sono si producono perché tanti... in Italia pure si producono embrioni, no, ma se ne producono solo tre che vanno tutti e tre impiantati, invece nel resto del mondo referendum. Va bene, benissimo, io accetto questa legge, sì. Però dico che in tutto il mondo una donna viene sottoposta una volta ad uno stress ormonale per produrre molte uova che vengono fecondate, poi vengono impiantate una per una fino a che non sia la gravidanza. Gli altri embrioni allo stato di 8 cellule vengono distrutti, allora quelli possono essere usati per la ricerca. Invece qui si è parlato dell'embrione che doveva diventare un uomo, qui invece si tratta di embrioni che vanno nella spazzatura. Questo è un punto, credo, fondamentale. Io penso che produrre un embrione che va nella spazzatura non è un'attività eticamente nobile. Va bene, no? Siccome meglio non produrlo. Allora è meglio fare in tutto il mondo le leggi come in Italia e in Nicaragua. Ah, certo, però in tutto il mondo funziona in quella maniera lì. Quindi di fatto ci sono degli embrioni, allora dice perché li dobbiamo buttare nel lavandino, visto che la legge lo consente, utilizziamoli per studiare. Tutto qui, questo è il centro del dibattito. Poi volevo dire anche, lei gentilmente mi ha presentato come radicale Coscioni, io non sono radicale e l'associazione Coscioni raccoglie gente di destra e di sinistra con spirito laico e ci sono assolutamente. Sì, sì, no, anche i radicali sono molto laici, non è così. Anch'io sono laico, non è una discussione tra bacchettoni e laici. No, non volevo identificare la Coscioni col partito radicale. Ah, beh, sì, va bene. Perché ci sono persone appartenenti a tutti gli schieramenti politici, di destra e di sinistra. D'accordo, no, questo lo so, figuriamoci, è una battaglia trasversale, per fortuna ci sono persone nella sinistra che la pensano come me e persone nella destra che la pensano come lei. Va bene, vi ringrazio molto e ringrazio anche Franca Fossati, Gloria Guerrera in redazione, in regia Valerio Rocchetti e Giorgio Matè. Darei la linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Ci sentiamo domani mattina, grazie a tutti. Parliamo con l'elefante.